Oggi sono emerse molte idee primarie, la nostra risposta proprio a queste primarie che l'abbiamo detto sono partite male e sono partite senza che si definisse il perimetro di un'eventuale coalizione. Allora come si fa a chiamarle primarie di coalizione se si è partiti da quella primaria e non dalla coalizione? Allora noi rispondiamo con le nostre idee primarie. Voglio far notare che qui sono intervenuti tantissimi movimenti, tantissime associazioni, centri sociali, comitati con cui abbiamo sviluppato relazioni in questi anni, perché questa era la scommessa di Coalizione Civica 6 anni fa, portare nelle istituzioni le battaglie che si formano nella nostra città e a cui noi vogliamo fare da megafono, dargli rappresentanza. Abbiamo parlato di ambiente, abbiamo fatto delle proposte molto chiare, una su tutte: vogliamo che Bologna diventi una delle 100 città selezionate dalla Commissione Europea che abbatte le emissioni entro il 2030, ma per fare questo c'è bisogno di scelte coerenti. Abbiamo parlato di aumentare progressivamente la gratuità del trasporto pubblico, di come incentivare la mobilità sostenibile, ma soprattutto abbiamo contestato una infrastruttura come quella del passante, che grazie a noi è diventata centrale in questo dibattito sulle prossime amministrative. Quel progetto non ci va bene, non ci è mai andato bene e non ci andrà bene in futuro. Siamo però qui a fare una richiesta a tutta la città e a chi ha partecipato con noi. In Francia stanno avendo grande risalto le assemblee sul clima e il nostro consiglio comunale recentemente le ha approvate e si terranno a breve. Allora, se vogliamo davvero fare del passante il simbolo della transizione ecologica, come ha detto anche Matteo Lepore, allora facciamo un'assemblea sul clima a cui partecipino però tutti i soggetti interessati per renderlo davvero il simbolo di quella transizione ecologica. Invitiamo Autostrade, invitiamo il ministro Giovannini, ma invitiamo anche i Fridays for Future, anche Extinction Rebellion e anche Rigenerazione No Speculazione, tutte le associazioni, i movimenti, gli ambientalisti che abbiamo sentito intervenire oggi e in questi anni di mandato nella nostra città. Abbiamo fatto anche delle proposte di modifica, ma ci sarebbe davvero tanto da riassumere, quindi cerco di tenere invece il filo sulla richiesta politica di questa assemblea, perché con punti di vista diversi mi sembra tuttavia molto chiara. 6 anni fa noi abbiamo creato una confluenza, l'idea era appunto di mettere insieme le migliori energie civiche della nostra città e anche quelle di alcuni movimenti e partiti. Ebbene, allarghiamo ancora una volta Coalizione Civica, rifondiamola, facciamo davvero sintesi di tutte le forze che abbiamo sentito quest'oggi, di quel perimetro rosso-verde che alcuni cercano in questa città e che altri invece vogliono affossare, tornando a un'idea di centrosinistra che guarda solamente ai moderati, praticamente solo al centro. E dov'è la sinistra, ci chiediamo allora? A noi non interessa essere minoritari all'opposizione solo per provare la nostra identità, perché in un momento come questo, nell'uscita dalla pandemia, dalla crisi sociosanitaria ad essa legata e soprattutto in un momento di crisi ambientale, noi pensiamo di essere tutti insieme fondamentali nei prossimi 5, 10, 15 anni, per le prossime generazioni di bolognesi. Allora, non ci interessa essere minoritari all'opposizione solo per tutelare un'identità, ma ancor meno ci interessa essere minoritari in una eventuale maggioranza e in una eventuale coalizione di centrosinistra. Quindi, se vogliamo la sinistra di governo, tutte e tutti insieme dobbiamo pretendere che la sinistra governi.